Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, siete sempre collegati con il Groove Master Studio di Radio 24 per una puntata del Soundcheck, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al mio partner di queste avventure radiofoniche, ovvero Francesco Tromba, e vorrei ringraziare per la partecipazione il nostro ospite. Quindi, mio caro Francesco, direi di introdurre il nostro ospite, con il quale oggi affronteremo un tema molto importante: come avere successo oggi con la discografia a pezzi. E quindi stiamo parlando di un giovane artista, di un giovane cantante che sta muovendo i primi passi nell'ambiente delle sette note per aspirare al successo discografico e magari anche con i concerti. Cosa molto complessa e difficile, ma ne parleremo con il nostro ospite. Vado quindi a introdurvi un mio amico ormai da tanti anni, forse troppi, ne ha viste di tutti i colori, producer discografico, ha lavorato per i grandi network italiani, ha gestito la carriera di grandi artisti, insomma anche lui, come te, mio caro Francesco, un comunicatore della nostra musica, della musica italiana. E quindi grazie a Luigi Calivà per essere nostro ospite. Buonasera a tutti, grazie. Ciao Luigi. Allora presentiamo, mio caro Francesco, la figura professionale di Luigi Calivà. Sì, allora inizia negli anni 80 come tecnico del suono, però poi si sposta su tutt'altri settori, come soprattutto il music marketing, sia per quanto riguarda il settore radiofonico, sia per quanto riguarda il settore degli eventi. Ha maturato diverse esperienze professionali in importanti aziende, come, per fare un nome, uno dei network maggiori come ad esempio RDS, di cui è stato consulente per più di 15 anni. In questo momento fa principalmente il consulente sia per artisti che per aziende. Nominiamo alcuni dei maggiori artisti con cui ha collaborato, come ad esempio Neffa, Raff, Michele Zarrillo, Sergio Cammariere, Fabrizio Molo, solo per citarne alcuni. Gestisce anche un social network dedicato alla musica, si chiama bancamusica.com, e ha scritto un libro importantissimo, Essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. E stiamo parlando del nostro amico Luigi Calivà. Allora Luigi, tu hai scritto, e tra l'altro credo che sia stata pubblicata proprio in questi giorni, l'edizione numero? No, l'edizione è aggiornata 2015, perché ogni anno faccio un aggiornamento mettendo delle variazioni, aggiungendo dei capitoli, aggiungendo anche dei collaboratori, perché ho anche delle importanti collaborazioni da discografici, personaggi del mondo, diciamo, musicale, che mi danno un contributo magari con un articolo, per cui un capitolo intero dedicato ad un settore rispetto a un altro. Ecco, questo per capire come essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. Questo è il titolo dell'ebook che tu hai scritto. Allora, essere artisti nel nuovo mercato musicale mi sembra una cosa abbastanza complessa e difficile oggi, perché è cambiato tutto, ma anche nell'arco di 20 anni, non tanti poi. Ma è cambiato tutto perché, diciamo, si è saltato completamente una parte di questo lavoro. Cioè, una fase è una fase proprio prettamente commerciale. Cioè, una volta, se un artista registrava un disco, per pubblicare questo disco aveva bisogno assolutamente di una casa discografica, perché doveva stamparlo, doveva venderlo attraverso una rete commerciale, che erano i negozi, per cui i rappresentanti, questi tipi di situazioni, per cui con una distribuzione di un certo tipo, e doveva promuoverlo. Oggi come oggi, praticamente, se tu hai un disco pronto, non hai bisogno più della casa discografica per fare questo tipo di lavoro, perché la maggior parte delle vendite si fanno ormai online, per cui tu hai soltanto bisogno di trovarti un distributore online, te lo trovi da solo e il disco lo metti fuori. Hai bisogno di promuoverlo, questo sicuramente sì. E qui entrano in ballo i nuovi media, per cui il web 2.0, i social e tutto un mondo che gira oggi in questo modo, come tutti noi sappiamo. Per cui questo è un po' il meccanismo che è saltato completamente. in questo meccanismo che è saltato, chiaramente che cosa è successo? Che la discografia si è ridimensionata, la grande discografia. Per cui, essendo ridimensionata, oggi lavora soltanto sugli artisti che già aveva sotto contratto e poi ha l'abitudine di prendere degli artisti semilavorati, chiamiamoli così, via, che hanno già fatto un percorso. In questo caso, ultimamente, il percorso preferito dalle case discografiche sono i talent show. Perché? Perché gli artisti vengono bruciati, vengono bruciati velocemente. Per cui un anno, dura un anno e mezzo, dopodiché passiamo al prossimo vincitore. Io dico sempre vengono bruciati nel senso che la loro carriera inizia in quel fuoco, momento e finisce una fiammata che poi dopo si esaurisce. E come giudichi questa cosa? Beh, io la giudico abbastanza negativa, nel senso che abbiamo degli artisti che magari hanno un talento, in questo caso specifico vocale, diciamo, perché nascono proprio cercando di interpretare delle canzoni, delle situazioni. Magari hanno talento, magari hanno delle capacità, ma poi alla fine allo scontro con il mercato discografico, dove bisogna avere canzoni, situazioni, cose eccetera eccetera, si perdono perché magari c'è troppa fretta nel costruirli. E allora oggi parleremo di come si può costruire la carriera di un giovane artista. Ne parleremo con Luigi Calivà e con il nostro Francesco Tromba. Ecco, Francesco Tromba magari lo prendiamo proprio come il giovane artista di talento, oppure no, che vuole affrontare il mercato, non posso dire discografico, ma il mercato della musica oggi. Allora andiamo alla musica. Io ti omaggio con una delle nostre band preferite, perché appartiene proprio alla nostra generazione. Allora era una band di riferimento, una band che aveva rinnovato il suono dell'R&B e del soul, e quindi ti omaggio, mio caro Luigi, con gli Earth, Wind & Fire. Questo è un brano recente intitolato Sign On, qui al Soundcheck di Radio 24. Suono degli Earth, Wind & Fire con Sign On qui al Soundcheck di Radio 24 per omaggiare il nostro ospite Luigi Calivà, professionista della musica, professionista del marketing, che ha lavorato con i grandi network, ha seguito e lanciato il successo e la carriera di grandi artisti, che ultimamente ha scritto questo: essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. Una pubblicazione che è rivolta a chi? È rivolta naturalmente a tutti i giovani artisti che iniziano una carriera musicale e non sanno veramente che pesci prendere, perché la maggior parte, tra l'altro, dei giovani artisti non conosce il mercato musicale, perché magari è nato in un periodo in cui quel mercato musicale di cui parlavamo prima non c'era più, e oggi non sanno veramente e non conoscono nemmeno chi fa che cosa nel mondo della musica. Confondono un manager con un produttore, l'arrangiatore con il produttore, sì, l'impresario con il manager. Sì, quindi non conoscono le regole del mercato e probabilmente non conoscono neanche la ripartizione dei diritti d'autore legati alla SIAE. Quello è complicatissimo. Diritti connessi, diritti d'autore, insomma, è una cosa abbastanza complicata per tutti. Quella. Bene, Francesco, hai qualche domanda per il nostro Luigi? Sì. Allora, io, diciamo, in questo momento personifico l'artista emerge, che vuole emergere. Su che cosa mi conviene focalizzarmi? Cioè, mi conviene fare il cantautore, fare delle mie canzoni, fare l'interprete? Cioè, che tipo, qual è, diciamo, il primo passo? Sì. Vabbè, innanzitutto uno deve fare quello che realmente è, questa è la cosa fondamentale. Cioè, se tu sei un cantautore, fai il cantautore, se sei un interprete, fai l'interprete. Su questo non ci piove. E quello su cui uno si deve focalizzare è su un concetto che, almeno è una mia opinione personale, fondamentale, che oggi il mercato discografico, e soprattutto per un artista emergente, si basa più sulla percezione del successo che sul successo reale. Cioè, una volta il successo era: io sono un cantante, ho venduto 300.000 dischi e sono un artista di successo. Oggi questo meccanismo non esiste più. Perché non si vendono più 300.000 dischi. Ma nemmeno se ne vendono pure 100.000, ma nemmeno 1.000. Sì. Noi siamo convinti che alcuni artisti sono straordinari, hanno venduto chissà che cosa e non hanno venduto nulla. Hanno venduto quelle poche copie online che si vendono. Allora, ne parliamo fra pochissimo. Io vorrei continuare con il sound degli Earth, Wind & Fire, però rivisitato dalle voci meravigliose dei Take Six per una produzione di Marcus Miller. Questo è un classico intitolato Sing a Song. Soundcheck, il suono della musica. Con il nostro ospite Luigi Calivà stiamo parlando dell'essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo, che è anche il titolo di questa sua pubblicazione che troverete online, credo, no? Si può fare il download con grande facilità. Dove? Su un sito che si chiama lulu.com, che è un sito di autopubblicazione internazionale, dove io ho sempre pubblicato le cose che ho scritto. Bene, quindi essere artisti oggi e muoversi con successo, una cosa molto complessa. Alla base di tutto però l'artista, mio caro Luigi, partendo proprio da zero, deve avere talento. Il sì. Talento è alla base di tutto o no? O si può avere successo anche senza avere talento? No, questo non credo. Io credo che il talento sia comunque l'elemento scatenante di un successo, anche perché la gente alla fine può ingannarla per un po', poi alla fine percepisci che non sei un personaggio di talento, ecco, che non hai talento. Ecco, tu mi dicevi che fino a 20 anni fa c'erano delle figure professionali all'interno delle case discografiche che i famosi talent scout andavano in giro per locali, trovavano il talento, se lo coccolavano, magari gli trovavano gli autori giusti, le giuste canzoni per poi produrre l'album o il singolo, cose che non si fanno più. Tu mi dicevi che oggi le case discografiche, soprattutto le multinazionali, cercano degli artisti seminavigati, ovvero quelli che poi hanno successo nei talent show. Sì, quelli che hanno successo nei talent show e quelli che magari qualche volta capita che hanno anche successo fuori dai talent show, nell'underground, nel panorama indie. È molto frequente ultimamente che alcuni personaggi indie arrivano in mano alle case discografiche, che li gestiscono, li aiutano a gestire la loro carriera, che era arrivata fino ad un certo punto. Il nostro sforzo, lo sforzo del giovane artista, in questo caso Francesco Tromba, è quello di gestire tutta la prima parte del suo percorso artistico, la pubblicazione di un singolo, la pubblicazione di un altro singolo, eccetera, eccetera, cercando di far crescere ed aumentare piano piano da parte del pubblico la percezione che lui sia sempre più un personaggio di successo. Naturalmente, se uno fa il cantante, la cosa più importante è avere delle canzoni. Su questo non ci piove. Eh certo. Per cui non è che si può fare senza musica e senza canzoni. Questo, secondo me, è il percorso che bisogna costruire. Per fare questo ci sono alcuni meccanismi che bisogna conoscere, che bisogna sapere, che sono come promuovere il disco sul web, quali sono le cose da fare e da non fare. Ora il discorso sarebbe molto complicato, però un paio le possiamo anche dire, voglio dire. Per esempio, io vedo spesso che i giovani artisti pubblicano su YouTube dei video live veramente orribili. Orribili. Orribili sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista dell'audio, perché magari preso in presa diretta in un modo incredibile. Quella lì è proprio la cosa peggiore che si possa fare, perché lì c'è e rimane quella cosa lì, perché poi devi toglierla, resta, magari sì. Gira qualcuno, la fa girare, eccetera, eccetera, e Il giorno che tu invece hai un prodotto buono, qualcuno digitando trova quella robaccia lì. Bene, quindi giovani artisti, evitate di pubblicare su YouTube video non all'altezza del momento e soprattutto cercate di imparare le regole, cercate di diventare anche degli imprenditori e quindi dei producer al tempo stesso, artisti e producer. Questo è quello che devi fare, Tromba. Quindi devo studiare tantissimo. Beh, devi studiare, intanto ti devi scaricare un bel software sul computer per iniziare a realizzare i tuoi provini e poi con Luigi Calivà cercheremo di capire quali sono i prossimi passi da muovere nei meandri del sottobosco musicale, soprattutto del nostro paese. Invece andiamo al talento di Shaina Steel, eccellente vocalist che abbiamo presentato qui al nostro soundcheck con il nuovo album intitolato Rise, e con soddisfazione abbiamo anche notato che Shaina Steel è arrivata ai vertici della classifica discografica di iTunes per quel che riguarda il jazz, affiancando i pezzi da 90 delle multinazionali come Diana Krall con il nuovo album e Annie Lennox. Lei si chiama Shaina Steel, recentemente in tournée in Italia, il brano è Everybody's Crying Mercy da Rise. Shaina Steel al soundcheck di Radio 24. Talento di Shaina Steel con l'album Rise, inserito nella categoria jazz di iTunes, ma è un album abbastanza vario da un punto di vista sonoro, si va dall'R&B allo swing, dal funk anche a cose un po' più esoteriche musicalmente parlando. Il nostro Luigi Calivà, esperto in comunicazione e marketing nella musica ormai da 30 anni a questa parte, è nostro ospite per parlare, per raccontarci come un giovane artista può affrontare il mercato oggi, e il nostro Francesco Tromba, che è l'artista che abbiamo preso in esame e in considerazione, ha un quesito. Sì, allora, sempre rimanendo sulla questione dei talent, a parte diciamo Marco Mengoni e pochi altri, dal punto di vista discografico e proprio di carriera, nessuno è venuto fuori da questi talent. È un problema di mancanza di materia prima, cioè gli artisti che vengono fuori da questi talent non sono così bravi da costruirci qualcosa discograficamente parlando e anche dal punto di vista dei live, o è proprio anche l'industria discografica italiana che non è più quella di una volta magari? O brucia tutto velocemente? Ma brucia tutto velocemente, l'abbiamo già detto prima, però in realtà allora, dal punto di vista del live, gli artisti che escono fuori dai talent comunque hanno una loro vita, diciamo perché oggi come oggi la parte più importante dell'attività di un artista è la musica live, sono i concerti, perché dai dischi proventi se ne prendono molto pochi. Questo è fondamentale come discorso. E proprio per questo, dal punto di vista discografico, qualche volta anche l'artista che tu percepisci di grande successo, che è uscito fuori dal talent, magari ha dei risultati un pochino più deludenti di quelli che magari può avere un artista consolidato da parecchio tempo, insomma, che sta da parecchio tempo sul mercato. La realtà, io faccio sempre una battuta sull'Italia, dico sempre che in Italia non mancano i talenti, manca il mercato. Manca il mercato, attenzione mio caro, manca il mercato perché il paese è piccolo, perché non si crede più nella musica. Il paese non compra musica. Il paese non compra musica. Non è l'Inghilterra, non è la Francia, non è la Germania, non è gli Stati Uniti. Purtroppo l'Italia è un paese dove siamo abituati a scaricare la musica gratis degli anni, no, ma è un paese dove la musica non ha più l'importanza che aveva prima. Questa è la realtà, la gente è distratta, poi la crisi ha peggiorato, ma non per una questione economica, per una questione di attenzione. Una volta la musica era un elemento della nostra giornata, della nostra vita, la potevamo vedere in televisione quando eravamo ragazzi, perché non la potevamo, oppure andare a vedere un concerto. Oggi non è più così, la gente vive di altre cose, vive di programmi televisivi, l'Isola dei Famosi, gossip, se proprio deve distrarsi, se riesce a distrarsi, ecco. non vive di musica. Mi sta facendo venire una grande tristezza, Luigi. Lo so, ecco, purtroppo sì. Allora mi voglio riprendere col talento. Parlavamo di talento e lei è un vero talento. Purtroppo però è scomparsa discograficamente. Ha realizzato pochi dischi in carriera, una voce infinita, quella di Rachelle Ferrell, addirittura 6 ottave di estensione per questa ragazza che è stata scoperta da George Duke. L'ultimo album per lei risale proprio al 2000 e infatti da questa bellissima produzione curata da George Duke, purtroppo scomparso, il brano è Will You Remember Me? Sì, ci ricordiamo di te, Rachelle, e torna presto con la tua grande voce. Soundcheck. Il suono della musica. Come giovane chitarrista jazz, poi George Benson con la sua voce splendida è diventato una pop star assoluta per la discografia internazionale. Qui la sua interpretazione di un classico di Donny Hathaway intitolato The Ghetto. Luigi Calivà, nostro ospite, per parlare di discografia, parlare di musica e soprattutto per raccontarci questa pubblicazione molto interessante che si intitola Essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. Quindi mi sembra, mio caro Luigi, che il talento ci deve essere, però per un giovane artista sono cambiate le regole, quindi è inutile pensare di essere scoperti da un talent scout di una multinazionale, bisogna mettersi in proprio, darsi da fare, rimboccarsi le maniche, capire come funziona il mercato oggi e come promuovere la propria arte per poi approdare magari a un'etichetta anche indipendente che creda nelle tue possibilità. Allora, diciamo che il principio fondamentale, l'elemento fondamentale, il consiglio principale che possiamo dare a un giovane artista che inizia, una band che inizia, perché poi ci possono essere mille modi di fare musica, è quello di non partire dalla realizzazione di un album e dalla pubblicazione di un album, perché ormai la musica viene consumata singolo per singolo, brano per brano, sì, in streaming, in download, per cui prendere 10 canzoni, pubblicarle significa buttarle dalla finestra, perché in realtà, voglio dire, non vengono usate, non vengono consumate. È meglio centellinarle, realizzarle e centellinarle in un percorso magari che dura un anno, mettendo fuori un singolo ogni 2 mesi e su questo singolo costruire un po' di comunicazione sul web, attraverso magari, che ne so, un professionista che ti aiuta, un ufficio stampa, perché questi elementi sono elementi sempre validi per fare musica. Cioè, nel momento in cui tu hai un prodotto e lo vuoi promuovere, hai sempre bisogno della collaborazione di professionisti. In questo caso l'ufficio stampa e la promozione, la web promotion, sono cose molto importanti. Ecco, noi però che seguiamo il mercato discografico in senso lato, quindi non soltanto le pubblicazioni delle majors, delle indipendenti, ma seguiamo anche molto quello che succede sul web, su SoundCloud, su Bandcamp, che sono siti, abbiamo notato, molto utilizzati dai giovani artisti internazionali, pochissimo dagli italiani, perché in Italia si è ancora attaccati proprio al supporto discografico, al CD, alla casa discografica in senso tradizionale. Beh, la percezione, cioè, allora, a me succede Questo perché forse il paese è ancora antiquato in sì. senso proprio generale. Oggi stiamo scoprendo lo streaming, oggi insomma voglio dire, partiamo da questo discorso. Il discorso è molto semplice. Io ogni giorno ricevo un paio di mail di artisti che mi chiedono aiuto, mi chiedono consigli, io li do tranquillamente, gli do la mia interpretazione, voglio dire. Il problema è che gli artisti oggi ancora non hanno capito che devono fare da soli, ancora non hanno capito che devono conoscere, che si devono formare, che devono andare in una scuola e non soltanto imparare a suonare, ma anche a conoscere il mercato e come gestire la propria carriera. Perché oggi come oggi questo è l'elemento fondamentale, sapere come muoversi. Bene, quindi Tromba, tu che sei un comunicatore multimediale, diciamo la fase 2 già ce l'hai in mano, devi soltanto imparare a suonare. Eh sì, è la parte principale, quindi mi manca. Va bene, allora Luigi, noi fra pochissimo, subito dopo l'informazione delle 20, dovremmo incontrare via Skype il talento della signorina Frida, che è la voce solista dei Native Dancer, band inglese di riferimento in questo momento, con un nuovo EP, quindi proprio tanto per farti capire che seguiamo il mercato contemporaneo, però naturalmente se vuoi puoi restare con noi e quindi continuare più tardi la nostra conversazione. Intanto vi lascio con la voce di Lala Hathaway, oggi un'artista accreditata, ma una delle prime esperienze discografiche la fece con il pianista Joe Sample, leader dei Jazz Crusaders, interpretando questo classico del repertorio intitolato Street Life, che noi conosciamo nella versione vocale di Randy Crawford. Lei è Lala Hathaway con Joe Sample al Soundcheck. Ci risentiamo subito dopo l'informazione di Radio 24, sempre qui con il Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Diamo il via alla seconda parte del Soundcheck di Radio 24 e siamo felicissimi di incontrare via Skype una band di riferimento in questo momento per la discografia e per la musica lì in Inghilterra, una band, mio caro Francesco, che ci sta facendo impazzire con questo EP appena pubblicato. Ladies and gentlemen, I'm very happy di presentarvi Native Dancer. Hello guys, how are you doing? Good. Oh, allora noi siamo felicissimi di incontrare Native Dancer perché credo, mio caro Francesco, che il genere, il sound che loro propongono è qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo per le nostre orecchie. Sì, anche qualcosa di molto futuristico, ascoltandoli si capisce che sono anche cioè, un sound del futuro, potremmo dire. So Francesco says that your sound is a sort of sound for the future, so what do you think about Native Dancer? A concept. What's your concept for the music? Qual è il vostro concept per la vostra musica? There's no deliberate aim to form a concept. It just came together because the five of us have so many different influences, and we wanted to just be free as possible and not close out any of the influences we've had. So all the music we've ever been involved in and enjoyed and inspired by has just creeped into the music. So there's air and pop and electronic and soul and all kinds of things. Ecco, so it just came together very naturally. Ecco, allora la cosa è venuta fuori molto naturalmente, con grande facilità, non avevano un concept sul quale lavorare, ma è quello che è venuto fuori dal lavoro di cinque musicisti con estrazioni diverse. Tell me about the kind of production. How did you work for Native Dancer EP? Well, talking about the studio work. The studio, yeah, we rent a studio in Hackney in London, and that's pretty much where sort of 70% of the work was done and the production. We used a few different studios around town to record some drums and a bit of us together, but we're pretty much self-sufficient in our little studio den we have, which is we're quite lucky to have, really. Così hanno lavorato in diversi studio cercando di mettere insieme i vari elementi, per esempio la batteria è stata registrata da una parte e così via, però alla fine il suono che è venuto fuori è sul serio qualcosa di speciale, intanto perché credo che alla base, mio caro Francesco, ci sia il talento di musicisti. I think that the most important part of the work is because of the talents of the members of Native Dancer, so thank you very much. Oh, thank you. Nice compliment. Oh, so now I want to play something from the EP, the Native Dancer, and I think that maybe you can introduce Love. It's a very simple title, but the composition is pretty cool. So what do you want to say, Frida? Oh, me? Yes, yeah. Please. What do you think it's about? No, but maybe you can speak. Maybe you can say something about this composition, Love. The title is simple, but the music is particular. Yeah, it is. I talk about a her in the lyrics, and I'm talking about the world. Eh sì, parla praticamente dell'amore per il mondo, no? È questo, Francesco? Eh sì, l'amore che trionfa su tutto. L'amore trionfa su tutto, Native Dancer al soundcheck di Radio 24 con Love, allacciatevi le cinture di sicurezza. Soundcheck, il suono della musica. Native Dancer qui al soundcheck di Radio 24, dal loro nuovissimo, recentissimo EP, si intitola SWB, questa composizione. Native Dancers sono in contatto con noi via Skype. Intanto mi sembra che il nome della band, adesso glielo voglio chiedere, se viene dal disco di Wayne Shorter. So why Native Dancer is the name of this band? From Wayne Shorter, fantastic album or not? Yeah, it was definitely... that name came from the album. Partly, it's an amazing album, obviously, but it's sort of that those two words conjures up a lot of thoughts and feelings, and it seemed to suit our band and the kind of music we were trying to make, and sort of it embodies some sort of universal. Mm-hmm. Universalism about all of us. I don't know if that's the word, universalism. It is now. I didn't say yeah. that. You know, we're all native. We're sort of all native. We're all natives, and it's good to dance. And hopefully, our music does that. And yeah. I guess that's sort of why we like that name. Eh sì, infatti anche a loro è piaciuto il nome proprio di questo album fantastico realizzato da Wayne Shorter, celebre sassofonista che ha fatto la storia del jazz contemporaneo, e in qualche modo il suono di quel disco ha ispirato anche le atmosfere dell'album dei Native Dancer. In questo momento, perlomeno noi siamo sempre abituati, Francesco, quando si parla del sound tipicamente inglese, a pensare a qualcosa che ci riporta un po' al rock, al rock and roll, ma in questo momento in Inghilterra stanno venendo fuori delle realtà molto interessanti sia nel jazz che nella musica contemporanea. Sì, bastava anche magari essere al festival di Giles Peterson per rendersi conto della varietà della scena londinese, della scena musicale londinese. Infatti, so tell me something about the contemporary music scene in London right now. Well, I would say there's a lot of different scenes in London and a lot of different people making various different kinds of music. But as far as we were concerned, we just really wanted to be completely free and encourage kind of an idea of like breaking down any boundaries between genres. And, you know, that's a big ethos in the band, really, is trying to be as boundaryless as possible and just allowing anything to come in. So we've all played in various different situations and various different music styles and enjoyed them and had incredible experiences with different music and just wanted to include it all, really. But in London, there's lots of seriously great music happening and really progressive music across, I think, all genres. London's a great hub for super talented musicians from, you know, classical, contemporary music, rock, like electronic. There's stuff going on all the time, and I think that's why we were all lucky enough to meet and make the music we make, because it's going on there at the moment, I think. Ecco, sì, si considerano molto fortunati proprio per il fatto che a Londra ci sono musicisti eccezionali, c'è una scena in grande fermento su tutti i generi, e anche loro vengono da generi diversi, hanno suonato di tutto, e quindi il suono della band è un concentrato di tutte le loro esperienze. Mio caro Francesco, hai qualche domanda per Native Dancer? Sì, ho una domanda. Is there a properly leader in your band, or you act most like a collective? Ecco, se c'è un leader nella band o se è un lavoro collettivo? I think the three of us, do we call ourselves leaders? I guess we're the engines to the ship, so it were. So myself, Sam, and Frida, we sort of, I would say we... Maybe we drive it. We rock the boat. Yeah, we set the sails, but we're not necessarily the leaders. We all have a lot of input in the music. The music's the captain, you see. Yeah, the music's the captain of this. We just rock the boat. We just kind of. Beh, praticamente è la musica che guida tutto l'organico della band. Insomma, non c'è un vero leader, c'è qualcuno che mette delle idee e poi si lavora tutti insieme sul progetto. So guys, I'm very happy to know you, and I'm very happy to see your faces so smiling in that kitchen. Che forse hanno fatto un breakfast, hanno appena mangiato, no? So tell me about your next step in the music, in your career. Quale sarà il prossimo passo? You're ready for a complete album? Oh, well, we're just trying to make music as we go along, continuously, just working on this EP and, you know, the whole shebang, but still writing a lot. And the EP comes out 9th of March, by the way, on iTunes, and yeah, like Frida said, there's new music coming, and a second EP probably later in the year, and we're just really working on it all the time. So there's going to be more and more. Ok, quindi non c'è in atto la produzione di un album completo, ma la pubblicazione di un secondo EP. Il primo è stato pubblicato il 9 di marzo, quindi noi abbiamo suonato praticamente un'anteprima nell'arco delle ultime due settimane, come spesso facciamo, mio caro Francesco, visto che siamo attentissimi e non ci sfugge nulla. Sì, li abbiamo trovati in realtà quasi per caso, però ci sono piaciuti tantissimo e abbiamo cercato anche di conoscerli. E infatti lo stiamo facendo, ve li stiamo presentando, Native Dancer al Soundcheck di Radio 24. Li salutiamo, thank you very much ragazzi, in bocca al lupo e good luck with music. Grazie mille. Native Dancer con Until Frida Speaks al Soundcheck. What if you rough up your game a bit? Cries now silent. Crush my lip, kiss the pavement. Wondering how it applies to me. Rules are deceiving. No dice to play with one man to feed. So what if this mess is always in my reach? A set reviving thing. Scars meant to teach. Soothes you. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Chiudiamo questa finestra internazionale, questa finestra su Londra con i Native Dancer per tornare al Groovemaster Studio in compagnia del nostro ospite Luigi Calivà, autore di questa pubblicazione intitolata, come si intitola, Tromba? Essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. E avere successo. Ora però per un giovane artista, mio caro Luigi, certamente il ragazzo si deve produrre il singolo da solo, deve metterlo in bella mostra su YouTube con un video accattivante, come dicevi tu, comunicare il suo talento utilizzando i social network, però poi si aspira sempre ad avere il famoso airplay sui grandi network. Come si arriva ai grandi network? Allora, i grandi network non suonano artisti emergenti. Ecco. Il motivo per cui il motivo per cui non suonano artisti emergenti è prima di tutto perché ormai i grandi network sono un'unica grande radio, solo successi. Mm. E poi perché effettivamente se vai ad analizzare il clock, quello che si dice che è praticamente l'ora diciamo di un grande network, tra notizie, pubblicità, news in testa, uscita e talk, massimo si suonano 7 o 8 dischi grasso che cola. Per cui chiaramente. Quindi è difficile che un network possa lanciare dei nuovi interpreti o fare tendenza? Tendenza sicuramente no, almeno no. Un grande network. Mm. Poi però. Per consolare gli artisti da questo punto di vista. Ci siamo noi. Esatto. Ci siamo noi. Esatto, per consolare gli artisti da questo punto di vista possiamo sempre dire che se vanno ad analizzare i dischi più venduti in classifica e i dischi più suonati, molto spesso le cose non corrispondono. Il dato non coincide. Non coincide. Mm. Perché? Perché i dischi li vendono li comprano i giovani. I giovani comprano un certo tipo di dischi. Seguono magari talent piuttosto che interpreti più giovani. Può coincidere con artisti come Jovanotti che sono in target giovani, Tiziano Ferro. Ecco, tu stai parlando proprio del pop, no? Perché poi invece per altri generi come il jazz e la musica classica ci sono ancora degli affezionati acquirenti di materiale discografico, che sia CD o MP3 e via dicendo. Però insomma un appassionato di jazz e un appassionato di musica classica ama avere l'oggetto per rendersi conto anche delle note di copertina e di tutto il resto. Ha anche la curiosità. Esatto. L'appassionato di jazz, l'appassionato di musica classica. Ma la curiosità è alla base della creatività per un artista e credo che la curiosità debba essere anche alla base del lavoro di un direttore artistico di un network. Il direttore artistico di un network, diciamo, è un direttore artistico solo di nome. È un manager. È come il vecchio direttore artistico delle case discografiche. Che gestisce, i vecchi direttori artistici delle case discografiche hanno creato la musica italiana dagli anni 50 fino agli anni 2000, voglio dire. Per cui hanno fatto delle cose, insomma. E il direttore artistico di oggi è un gestore di contratti, rapporti, relazioni, interviste, successi, insomma, è questo un po'. Ecco, perché in Italia non si crea più musicalmente, fra virgolette, lasciami passare il termine, la tendenza, si lavora musicalmente su stereotipi, se è primo in classifica è Marco Mengoni e poi tutti gli altri hanno come riferimento quel modello. Ma perché, praticamente, innanzitutto in Italia esiste una massa enorme di gente che vuole fare musica. In Italia basta cantare sotto la doccia e mamma ti sente, cantare e dice: ah, tu sei più bravo di quello che ho sentito ieri, per cui devi fare assolutamente un disco. In Italia funziona così. Famoso network condominiale. Esatto, negli altri paesi, negli altri paesi non è proprio così, insomma. Cioè, c'è gente che fa musica per passione e gente che fa musica per professione. Chi lo fa per professione ne ha le capacità e il talento. Bene, allora Francesco, noi ci siamo tolti però la soddisfazione di presentare nel corso di queste due stagioni di Soundcheck molti artisti emergenti della discografia internazionale e di aver ricevuto un feedback importante da parte dei nostri radioascoltatori che inviano costantemente le loro email al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it e premiato dai nostri affezionati e appassionati di musica c'è anche il talento di Jarrod Lawson con Gotta Keep qui al Soundcheck. Caro Luigi Calivà, sono un po' triste perché alla fine tu mi stai convincendo che per un giovane artista ci sono poche scappatoie oggi. Intanto devono avere talento e forse un talento anche diverso, perché credo che nella diversità, con la diversità sia più facile potersi accaparrare una fetta di mercato. Più che con lo stereotipo, che dici? Beh, quello sicuramente. Io credo che una cosa che manca agli artisti oggi, ai giovani artisti che iniziano a fare musica, sia la curiosità. Cioè, e io che avevo detto? Non avevo detto questo? Sì. Infatti. La curiosità significa guardarsi intorno, ascoltare quello che fanno gli altri, ma non per fare quello che fanno gli altri, per conoscere quello che fanno gli altri. E la curiosità significa anche studiare, significa anche prepararsi, significa anche conversare, significa collaborare con gli altri, che è l'unico modo per riuscire a fare qualcosa. Infatti una cosa che mi dà proprio ai matti, come si dice, è quando un artista ha successo, come ad esempio un artista emergente come può essere Bruno Risas o Dente, e poi tutti quelli che escono dopo di loro cercano di imitarli. Non riesco a capire il senso di imitare uno che già ha successo. Ma perché innanzitutto partiamo da un concetto, che stiamo parlando di musica italiana, anche se di musica italiana indie, underground, insomma. La musica italiana, fare musica italiana è molto difficile, perché c'ha degli ambiti molto stretti. È anche molto difficile fare musica in Italia. Però fare musica in Italia e fare musica italiana di successo c'ha dei confini stretti linguistici, musicali. Noi abbiamo una tradizione che, volente o nolente, comunque ci sta sulle spalle, ci sta dietro, ed è difficile lasciarla indietro e, come ha fatto Gegé negli anni o come hanno fatto altri artisti, incamminarsi in sentieri diversi. Tortuosi. Esatto, diversi, diversi, assolutamente, capito? Certo, all'estero effettivamente c'è un fiorire di giovani artisti che fanno singoli, che fanno EP, che sperimentano, che cantano canzoni del passato con nuove versioni, cose. Qui in Italia fai una cover, fa tristezza, no? Fa tristezza, sì. Però ti faccio sentire una cover realizzata da questo ragazzo inglese che non ha ancora pubblicato il suo primo album e è già diventato un fenomeno non solo da un punto di vista musicale ma anche da un punto di vista mediatico, perché Jacob Collier, che i nostri radioascoltatori conoscono perché ne abbiamo parlato tantissime volte, abbiamo anche tentato un'intervista con lui ma prima o poi ci riusciremo, questo ragazzo che è appena ventenne suona tutti gli strumenti e quando realizza i videoclip li suona tutti benissimo. benissimo e poi canta, non, adesso ti faccio sentire come, praticamente realizza i videoclip dove filma le sue performance su tutti gli strumenti per poi realizzare, ecco, come dicevo, una cover di un brano splendido come Burt Bacharach, una versione originale di Close to You da parte di Jacob Collier qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. La Stargazer, il nuovo album di questa vocalist Carmen Rogers con Heartless qui al Soundcheck. Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento, vi ricordiamo che comunque torneremo domani, due appuntamenti dalle 15:30 e domani, mio caro Francesco, una puntata con tantissime novità, Eh sì, siamo pronti a scoprire nuovi talenti perché siamo sempre curiosi. E poi la seconda parte la dedicheremo alla figura di un eroe del jazz come Clark Terry, trombettista che ha fatto la storia del jazz, scomparso qualche settimana fa. E allora, grazie a Luigi Calivà per la partecipazione, voglio ricordarvi che c'è questo libro molto interessante che ha scritto Luigi con la collaborazione di vari amici, intitolato Essere artisti nel nuovo mercato musicale e avere successo. Quindi, mio caro Luigi, come possiamo chiudere? Qual è l'augurio che tu puoi dare ai nuovi talenti? L'augurio è quello di informarsi, se riescono ad informarsi, che già è un fatto. Per esempio, questo libro ti dà la possibilità di capire, leggendolo un pochino con attenzione, ti dà la possibilità di capire come iniziare a muoverti senza brancolare nel buio, per chi non conosce questo mondo. Io quello che posso augurare a un giovane artista è quello di trovare una canzone forte. Ah, grazie Luigi. Bene, questa è la cosa più importante. E poi un'altra domanda per te, visto che tu hai lavorato per i grandi network e sei un esperto di marketing e comunicazione. Avrai notato nell'ultima indagine sugli ascolti radiofonici che proprio la radio in generale in Italia ha avuto un calo. Perché secondo te questo calo e come mai Radio 24 invece ha consolidato il successo con dei margini, insomma con un'ottima performance anche nell'ultimo semestre, visto che poi non è una radio uguale alle altre? Ma è molto tempo che io, diciamo, dico e scrivo, anche mi è capitato di scrivere su questo fenomeno. Credo che la radio sia la radio musicale, la radio generalista come l'abbiamo chiamata prima, insomma la radio, il network radiofonico commerciale, sia destinato ad avere comunque un ridimensionamento in termini di numeri, perché se il mondo cambia, se la comunicazione cambia, cambia anche il modo di fare radio. Per cui chi riesce a trovare la chiave per cambiare questo modo di fare radio riesce a mantenersi a galla. Chi è attaccato al passato probabilmente è destinato a perdere ascoltatori. Bene, grazie a Luigi Calivà per la partecipazione, grazie a Francesco Tromba. Vi lascio con il suono neozelandese dei Fat Freddy's Drop. Ci risentiamo domani, sempre qui su questi schermi, con la nostra musica, quella del Soundcheck. Fat Freddy's Drop, Bones.